Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati ancora da Mirko Cavallini Studio e di Daici in regia, il nuovo appuntamento con il mondo della scuola, oggi in chiave europea. Tra poche settimane si rinnova il Parlamento europeo per i prossimi 7 anni, tanto è la durata della legislatura in Europa. Siamo in un periodo importante anche sotto il profilo dei finanziamenti. Il settennio 2014-2020 mette a disposizione tanti soldini per tantissimi progetti che poi magari pochi conoscono, e questo è uno dei difetti anche della burocrazia europea. Non c'è solo la burocrazia italiana, c'è anche quella di Bruxelles e di Strasburgo. Ci aiuta in questo viaggio all'interno dei progetti europei per la scuola il professor Francesco Tessotto, ben trovato. Grazie. Con un po' di abbassamento dovuto alle stagioni, sì. Non troppo invernali, devo dire, anche questo è... Ma tanto umide, questo crea un problema. Progetti europei. Io ricordo l'Erasmus, perché forse è quello più conosciuto, che riguarda il mondo universitario, ma anche le scuole superiori, fino addirittura alla scuola dell'infanzia, hanno avuto e lo avranno per il prossimo anno e mezzo possibilità di progetti di respiro europeo, poi qualcosa cambierà. Ma intanto diciamo com'è andata e come sta andando fino ad ora. Sì, di solito quando pensiamo all'Europa pensiamo ai bilanci dello Stato, ai vincoli europei, allo spread, eccetera. Ecco, ci sono alcuni aspetti dell'Europa che vengono, come dicevi giustamente, poco tenuti in considerazione. Tra questi ci sono gli impegni dell'Europa per la scuola. La scuola può utilizzare dei fondi europei per delle iniziative. Le iniziative nascono con l'intento di per far maturare nei ragazzi, nelle giovani generazioni, una mentalità europea, per uscire un po' dalla visione limitata ormai, perché ormai i confini nazionali sono considerati dei limiti, per aprirsi un po' alla cultura europea, per conoscere nuovi mondi, per avere nuove opportunità. Questo però riguarda non solo le giovani generazioni, ma per esempio i progetti europei permettono anche agli insegnanti di entrare in contatto con altri insegnanti, di conoscere sistemi scolastici diversi, metodologie diverse, eccetera. Ecco. Finora i programmi sono gestiti dalle agenzie nazionali. Le agenzie nazionali sono delle agenzie che risiedono nei vari stati e coordinano le varie iniziative. E afferiscono, credo al Ministero? Non afferiscono direttamente al Ministero, cioè non dipendono dal Ministero, però sono in contatto con il Ministero. Rispondono però direttamente all'Unione Europea, quindi sono delle specie di diramazioni dell'Unione Europea all'interno dei singoli stati, però siccome hanno a che fare con la scuola hanno rapporto con il Ministero. L'agenzia italiana è la LLP, Long Life Program, cioè il programma di apprendimento per tutto il corso della vita, perché i progetti non sono progetti solo che riguardano la fascia della scolarità, ma sono piuttosto ampli. I progetti più noti finora sono l'Erasmus, come hai citato tu, l'Erasmus che riguarda gli universitari, quindi l'Erasmus che permette ad universitari di fare parte del loro percorso in università straniere con borse di studio, frequentano università straniere, possono anche sostenere degli esami in università straniere e con convenzioni quegli esami vengono riconosciuti anche in Italia. Sono delle opportunità notevoli, in quanto permettono proprio agli universitari di conoscere non solo il sistema scolastico ma anche il mondo culturale straniero, e a volte sono delle vere e proprie aperture mentali, anche perché i ragazzi, oltre a frequentare l'università straniera, hanno la possibilità di frequentarsi tra di loro, quindi conoscono anche abitudini di vita diverse, eccetera. Poi ci sono altri progetti, i più famosi sono, per quanto riguarda la fascia della scuola, sono il Leonardo da Vinci e il Comenius. Leonardo da Vinci riguarda gli istituti tecnici e professionali. Il Comenius riguarda tutte le altre scuole superiori, la scuola media, la scuola elementare e anche la scuola dell'infanzia. La caratteristica di questi progetti è quella di mettere a lavorare insieme scuole di paesi diversi, per esempio il Comenius, per avere l'approvazione deve trovare la collaborazione di almeno tre scuole appartenenti a tre stati diversi. Stati di solito dell'Unione Europea, ma possono essere anche degli stati, dei paesi che gravitano attorno all'Unione Europea. In che cosa consistono? Consistono nel ritrovarsi, nel progettare un percorso didattico vincolante per le scuole che aderiscono e nel trovarsi periodicamente a fare il punto della situazione per lo scambio di materiali, eventualmente per correggere il tiro, eccetera. Questo è il progetto. Lo stesso vale per il Leonardo da Vinci. Possono esserci progetti anche di tipo diverso, per esempio organizzazioni di convegni internazionali a cui partecipino più scuole su tematiche, soprattutto tematiche innovative. Ecco, per esempio, porto un esempio anche perché ne ho come si è verificato direttamente l'efficacia. Noi da alcuni anni, la nostra scuola da alcuni anni sta facendo i progetti Comenius. Abbiamo, per esempio, adesso abbiamo iniziato un progetto biennale, quindi dura quest'anno e il prossimo anno scolastico. Ne abbiamo uno per la scuola superiore e uno per la scuola elementare. La scuola superiore abbiamo la collaborazione, oltre alla nostra scuola, di una scuola tedesca, di una scuola austriaca e di una scuola polacca. Quello della scuola elementare, la scuola tedesca, la scuola austriaca, una scuola turca, una scuola polacca e un'altra scuola, mi pare, della Slovacchia. Comunque, ecco, una collaborazione tra scuole di stati diversi. E l'aspetto notevole è di vari tipi. Primo, il fatto di lavorare per progetti, cioè lo scopo è quello di fare un percorso che arrivi ad un prodotto. Sembra una banalità, ma questo a volte può essere di grande stimolo, anche perché penso soprattutto alla scuola superiore italiana. La scuola superiore italiana è abituata a procedere per programma, per conoscenze di programma, eccetera. Questo invece impone di lavorare in maniera diversa. Hai un percorso dettato da certe modalità, da certi tempi, ma devi arrivare a un prodotto. Inoltre la metodologia viene concordata con i partner, quindi c'è una mescolanza anche di metodologie, cioè ti impone a confrontarti. Si impara imparando, ti impone di confrontarti con gli altri. Primo vantaggio. Secondo vantaggio che abbiamo constatato è quello che, per esempio, si comunica in lingua straniera, per cui si è costretti a impararlo, a mettere in campo gli insegnanti che conoscono la lingua straniera o quantomeno a sforzarsi di impararla. Terzo aspetto, da alcuni anni alla progettazione e alle fasi di revisione partecipano anche studenti, per cui anche gli studenti partecipano agli incontri e ci sono incontri di studenti con insegnanti e di studenti tra di loro. Anche questo è uno stimolo ulteriore. Ecco, allora tra poco, dopo la prima pausa, approfondiamo anche il coinvolgimento degli studenti e degli insegnanti nei rispettivi progetti. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già. Sono qui che ti aspetto, perché ho voglia di vincere. Non c'è altro che vorrei, rincontrare gli occhi tuoi, cancellarmi e rinascere. Ovunque sei, ti mancherà la mia complicità. Qualunque faccia mi somiglierà, ovunque sei, ti impegnerai per non amarmi più, testardo io, che quella fede non l'ho persa mai, come la prima volta, impacciato starò lì, cercando di strapparti una risposta, un meraviglioso sì. Ogni amore ha i suoi tarli, ogni storia ha i suoi limiti, resistenze non farò, se destino accetterò anche il rischio di perderti. Ovunque sei, di maledirmi non stancarti mai, quello che vuoi, ma questo cuore sanguina, lo sai, piglia chi noi ci consegniamo a questa realtà, vivremo poi con questo dubbio per l'eternità, svegliarmi dovrei. La casa è aperta, torna quando vuoi, mi trovi qui, perché non voglio perdermi così. Mille altre volte ricomincerei, ancora ti perdonerei. La voglia c'è, è sempre viva questa nostalgia di te. Ovunque sei, dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Con il professor Francesco Tessotto, dirigente dell'Istituto Madonna del Grappa di Treviso, stiamo respirando aria europea, non tanto e non solo in vista delle elezioni, ma approfondendo i progetti europei che riguardano la scuola, e sono molti e sono in fase di revisione, lo diremo poi. Progetti, soprattutto il Leonardo da Vinci e il Comenius, che riguardano dalle scuole superiori in giù, diciamo, perché l'Erasmus vada a scelta individuale dello studente universitario, progetti, dicevamo, che partono e coinvolgono le scuole, gli istituti. Come poi i singoli progetti coinvolgono gli studenti, alcuni studenti, gli insegnanti, alcuni insegnanti? Sì, quindi dicevamo prima, c'è un progetto scolastico che viene condotto all'interno delle varie scuole e lì c'è il coinvolgimento un po' di tutti gli studenti. Dicevamo anche un'altra cosa, che il percorso è finalizzato alla produzione di un prodotto, che può essere un filmato, può essere una ricerca, può essere... Ecco. Quel prodotto però deve essere internazionale, cioè deve essere per esempio in una lingua, si dice lingua veicolare, cioè una lingua scelta di comunicazione tra le varie scuole. Quindi c'è già anche lo stimolo a utilizzare sempre la lingua straniera. C'è un altro aspetto: i viaggi. Ogni tanto le varie scuole si incontrano nei viaggi. Per esempio, se ci sono 4 scuole che partecipano a un progetto, nei 4 anni almeno si ritrovano una volta nella sede della scuola, a rotazione, almeno una volta, ma succede il più delle volte che si fa più di una volta. A questi incontri partecipano sia alcuni insegnanti sia alcuni studenti. Al momento della presentazione del progetto bisogna dichiarare, e questo è l'unico vincolo serio, bisogna dichiarare quante persone si muoveranno nell'ambito del progetto. In base al numero di persone di mobilità, viene detto, viene dato un contributo forfettario, per cui tot a persona. La scuola, mentre una volta doveva rendicontare le singole spese, non so, si andava all'estero, si faceva il pranzo all'autogrill, bisognava dare la scontrina, sì. Adesso invece il contributo è forfettario, purché si rispetti la produzione di un progetto, che poi viene messo in una banca dati dell'Agenzia Nazionale, e il rispetto del numero di mobilità, cioè di persone che si muovono nell'ambito del progetto. Adesso col fatto che possono partecipare anche alunni, questo è molto più stimolante sia per gli alunni sia anche per le scuole, e anche diventa molto più vivace lo scambio di idee, perché quando ci si ritrova, di solito gli incontri sono di 4 giorni, quando ci si ritrova c'è anche una maggiore vivacità, una maggiore scambio, perché ci sono incontri tra insegnanti, incontri tra studenti, incontri assembleari insegnanti-studenti. C'è anche un altro aspetto, sempre sull'importanza dei progetti Comenius, per gli insegnanti c'è il fatto di conoscere, oltre a conoscere colleghi, ma di conoscere anche sistemi scolastici diversi, perché quando si fa l'incontro nelle varie scuole viene sempre riservata una porzione di tempo per lo studio del sistema scolastico del paese di cui si è ospiti. E c'è anche la possibilità per chi lo vuole di partecipare a lezioni, di frequentare le lezioni della scuola, per cui c'è anche, si tocca concretamente un sistema scolastico, la realtà dei sistemi scolastici. Per dare un ordine di grandezza, dicevi, finanziamenti che ci sono e che poi ogni scuola gestisce, è chiaro che poi ogni progetto, ogni azione avrà un budget, ma per dare un ordine di grandezza? Un ordine di grandezza, un progetto diciamo biennale, 2 anni scolastici, con 4 scuole e con minimo 12 mobilità, che è veramente poco, 12 mobilità, perché vuol dire 12 persone che si spostano una volta. Che si spostano una volta in un anno, 12 persone per scuola che si muovono almeno una volta nell'arco di 2 anni, ha un contributo forfettario di 14.000 euro. Con questi 14.000 euro bisogna coprire tutte le spese, ma insomma sono calcolati in maniera da poter coprire. Ponderata. Ponderata, sì. Soldi che vanno appunto a beneficio di tutti, perché ci si conosce meglio anche all'interno di questa Europa che sempre più persone non vogliono o non capiscono. Progetti che dicevi stanno cambiando, sì. Nel senso che si sta pensando, dopo tanti anni, da quant'è che esistono? Dire da quanto, ma esistono da moltissimo tempo. Si sta pensando appunto ad un contenitore unico, anche se poi in realtà concretamente la filosofia non cambierà. No, la filosofia non cambierà, o meglio cambierà parzialmente. Ci sarà un unico contenitore chiamato Erasmus Plus che assumerà tutti i vari progetti riorganizzandoli, cioè mentre adesso sono divisi per ordine di scuola e per categorie di scuola, adesso invece saranno divise per categorie di persone, cioè ci saranno progetti per insegnanti, progetti per studenti, progetti per lo sport, progetti per rivedere la struttura scolastica, quindi andranno per obiettivi, per azioni che non riguardano più l'ordine di scuola ma sono trasversali. E questo permetterà forse anche, per esempio sto pensando alla nostra realtà, noi nella nostra scuola abbiamo dopo la scuola media abbiamo sia liceo che formazione professionale, non abbiamo mai potuto fare un progetto che mettesse insieme liceo e formazione professionale perché appartengono a due mondi diversi. Adesso invece con la trasversalità potrebbe essere possibile fare anche questa operazione. L'ultima pausa e poi qualche esempio concreto, esperienza vissuta in ambito europeo. Dal mondo della scuola. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I'm feeling. but I do feel I will miss you much, miss you much. Ultima parte di questa puntata europeista della nostra trasmissione, europeista nel senso che stiamo parlando dei progetti europei in corso ancora per questo e il prossimo anno scolastico, poi dal 2015-2016 dovrebbe entrare in vigore l'unico contenitore Erasmus Plus, che comprenderà appunto dalla scuola per l'infanzia all'università studenti, professori con progetti trasversali, come si diceva poco fa. Progetti ancora in corso, evidentemente, col professor Contessotto facciamo qualche esempio concreto di ciò che in questi anni già avete vissuto personalmente o con i vostri studenti. Sì, la nostra è un'esperienza, altri hanno esperienze di altro genere, quindi io presento la mia, che non vuole essere totalizzante o esclusiva. O esaustiva, insomma, sì. O esaustiva. Ecco, per esempio noi negli anni abbiamo fatto vari progetti con Enius e questo ci ha permesso di approfondire, per esempio, alcune metodologie, soprattutto in ambito scientifico. Ricordo il primo progetto con Enius, avevamo fatto un progetto di educazione ambientale e avevamo scelto un ambiente, noi avevamo scelto il Cansiglio e lì abbiamo fatto tutto un monitoraggio, lavoro sul campo, analisi delle piante, dell'acqua, eccetera, eccetera. E ci ha permesso di, ci ha dato una spinta anche nello sviluppo del metodo scientifico con gli studenti, oltre anche a pensare a riorganizzare il nostro laboratorio scientifico, quindi è stato uno stimolo molto importante. Dopo, per due anni abbiamo avuto per esempio un lettore di madrelingua inglese gratuitamente, perché veniva finanziato dalla, era una studentessa universitaria inglese che aveva chiesto di trascorrere parte del suo tempo, del suo percorso scolastico in Italia, era ospitata da una delle nostre famiglie dei nostri alunni e svolgeva il suo servizio a scuola gratuitamente, quindi è stato un, doppiamente utile, un contributo non da poco, non da poco. Poi abbiamo usufruito del cosiddetto MIA, la mobilità individuale alunni. È un'opportunità che viene data a scuole che hanno già sperimentato progetti come Enius di mandare dei propri alunni in una scuola straniera a frequentare una scuola 3, 6 o 12 mesi. Noi adesso siamo al terzo anno scolastico che facciamo uno scambio di questo tipo con una scuola austriaca. Mandiamo ogni anno 3 alunni in Austria e la scuola austriaca ci manda 3 alunni da noi. Attualmente, per esempio a dicembre, i nostri 3 alunni sono tornati dall'Austria, hanno frequentato da settembre a dicembre. Adesso da gennaio ad aprile stanno frequentando 3 alunne austriache nella nostra scuola che poi ritorneranno. Il percorso viene riconosciuto dai ministeri, c'è una convenzione internazionale, certo, per cui i ragazzi non perdono l'anno, eccetera. Lo fanno assolutamente in maniera gratuita, vengono ospitati dalle famiglie, naturalmente si fa un progetto didattico concordato tra le due scuole, per cui si decide che materie frequentano, in che classe vengono inseriti, che cosa devono imparare, che cosa devono produrre, anzi non solo sono gratuiti, ma ricevono anche una piccola borsa di studio per le spese in loco. È un'opportunità importante perché non solo imparano la lingua o si rafforzano nella lingua, ma vivendo in famiglia per 3 mesi, frequentando una scuola per minimo 3 mesi, conoscono il sistema scolastico, hanno l'opportunità di conoscere l'ambiente. Ecco, negli ultimi 2 minuti circa che ci restano, negli anni e negli scambi che avete avuto tra insegnanti e studenti appunto dall'estero, gli stranieri che cosa apprezzano particolarmente del nostro sistema, che cosa vi hanno detto che apprezzano e che cosa hanno evidenziato come difetto principale? Partiamo dal difetto: vedono il nostro sistema piuttosto rigido, mentre nei paesi stranieri c'è maggiore flessibilità di percorsi, una maggiore opzionalità da parte dei ragazzi che possono scegliere parzialmente le materie, eccetera. Apprezzano la serietà e l'approfondimento dal punto di vista didattico. Per esempio hanno notato, ci hanno detto che i nostri studenti che studiano tedesco apprendono la letteratura tedesca meglio di loro tedeschi. Quindi il nostro sistema è un sistema che approfondisce molto, loro dicono qualche volta forse troppo, ecco. Apprezzano da noi la disciplina, che a noi sembra un po' strano perché è un luogo comune dire... Anzi, ci siamo pubblicizzati sì. negli spot dell'Expo come indisciplinati sì, e cacciaroni. Va bene. Apprezzano la disciplina, lì nelle scuole straniere c'è molta più, chiamiamola libertà, molta più disinvoltura anche nei movimenti, eccetera. Da noi invece c'è molto più, oltre al fatto che apprezzano la cucina, il paesaggio, eccetera. Ma meno male, almeno quelle sono rimaste cose buone che speriamo di poter... Ecco, un'altra cosa, dico, al di fuori dei progetti, sì. ma che sono conseguenza dei progetti, è la conoscenza che rimane tra le scuole. Per cui noi, dopo aver fatto i progetti, abbiamo organizzato degli scambi di ragazzi anche al di fuori dei progetti. Per cui ogni anno abbiamo una ventina di ragazzi che vanno in una scuola straniera per una settimana e ogni anno ospitiamo una ventina di ragazzi stranieri nella nostra scuola. È un piccolo volano anche per il turismo e per la conoscenza. Allora, il nostro tempo si è velocemente esaurito, ma torneremo a parlare di questi progetti nel corso delle prossime occasioni. Ringrazio anche per lo sforzo vocale, visto l'abbassamento di voce, il professor Francesco Tessotto per essere stato con noi, e buon lavoro per quel che resta molto dell'anno scolastico. Grazie. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.